Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo nella seconda ora del programma di due dati abbastanza impressionanti che riguardano, che in generale fanno capire quanto profonda e endemica sia la crisi dei consumi in questo paese, perché riguardano consumi di generi alimentari o dell'agroalimentare, come si chiama, che mai avevamo visto toccati. Mi riferisco da un lato al vino: per la prima volta in 10 anni cala il consumo e le vendite di vino nei supermercati, dove di solito c'è un vino anche di fascia abbordabile quanto a prezzi, e ripeto, è la prima volta in 10 anni. Dall'altro, l'industria alimentare in senso più allargato, che comunque resta la seconda industria del paese. Sia il vino che l'industria alimentare hanno avuto degli ottimi dati sull'export, ma dicevo, l'industria alimentare del paese segnala come in 5 anni di crisi il frigorifero degli italiani si sia svuotato per un equivalente di 10 miliardi di euro di spesa in meno, con un forte calo anche e soprattutto nel 2012, meno 3% sui generi alimentari. Ecco, questo a mio avviso, più di tante analisi, tante statistiche, la dice lunga sulle difficoltà delle famiglie del nostro paese, perché quando vai a toccare i consumi alimentari, il valore dei consumi alimentari, vuol dire che stai veramente risparmiando su ogni fronte. Detto questo, in apertura invece parleremo dell'asta dei nostri titoli di Stato, collocati quasi tutti gli importi, ma i tassi sono in crescita, quindi vuol dire che l'Italia, per riuscire a trovare qualcuno che le compri il suo debito, deve offrire un rendimento più alto, deve offrire di più. Ed è sempre un termometro di un paese che diciamo, viene percepito leggermente più rischioso. Quando sale il rendimento di un titolo di Stato, vuol dire che quel paese è più rischioso rispetto a prima, e di questo parleremo subito in apertura. E poi, come sempre, la borsa e poi i conti dell'Enel, che diciamo, vanno e si inseriscono comunque nella giornata di borsa. Milano oggi è decisamente la peggiore tra le borse europee, perde l'1,56%, Parigi meno 0,10%, Francoforte invariata, Londra meno 0,66%, l'America meno 0,05%. Per quello che riguarda l'euro su dollaro è 1,29,51 la quotazione. Ancora l'automatica più 3%, Saipem più 2,88%, Luxottica più 1,60%, Tod's più 1%, Mediobanca più 0,80%. Il fronte opposto invece: UbiBanca meno 6%, Enel meno 5,70%, Banco Popolare meno 5%. Sentite, diciamo, da queste cifre quanto pesanti siano i cali oggi sulle banche. Dicevo, Popolare Milano meno 4,20%, Emilia Romagna meno 3,88%, Generali meno 2%. E ancora Mediaset meno 4%, Buzzi Unice meno 2, Parmalat meno 2, Pirelli meno 1,90 come Azimut, e Intesa San Paolo l'1,80% il caro di Mediolanum, l'1,77% quello di Unicredit. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS, e poi come sempre la pagina di Focus Economia su Facebook. Bello partire subito con un ascoltatore che dice: c'è la crisi, calano i consumi, ma Barisoni è sempre lì, speriamo che la crisi faccia il miracolo. Adesso vediamo, abbia fede, non so cosa devo dirle. Invece, seriamente, a chi ci chiede, ma forse abbiamo capito, abbiamo cominciato a capire il valore del cibo e quindi impariamo a consumare meno, no? Io vorrei che fosse così, perché quello sarebbe un atto di cambiamento culturale in cui uno è un consumatore più consapevole. No, quello che vediamo purtroppo non è che si consuma meno, si spende meno, quindi la ricerca spasmodica è su valori più bassi di prezzo, e qui, da lì poi il calo complessivo del fatturato e delle spese degli italiani per il cibo, quindi è proprio una minor spesa dovuta a un minor potere d'acquisto. Per essere molto banali, lo stesso chilo di pasta lo si sceglie di marca più bassa o più conveniente e quindi complessivamente il valore della spesa alimentare delle famiglie italiane cala. Ancora, andiamo invece ai mercati altri. L'oro in rialzo a $1,593 l'once, il petrolio in rialzo a $92,88. Tra l'altro oggi c'è un segnale, un nuovo attacco del premio Nobel Paul Krugman contro le politiche di austerità. Domani si apre un consiglio europeo importantissimo. In un commento sul sito del New York Times, infatti, in cui viene citato l'economista italiano Alberto Lesina, nostro ospite alcune volte, insegna a Harvard, intitolato Night of the Living a Lesina, insomma, Krugman prende ancora una volta di mira uno studio di Lesina, secondo cui le politiche di austerità favorirebbero la crescita economica. Krugman è nettamente contrario a questo e dice anche il Fondo Monetario Internazionale ha abbandonato questa impostazione, ma ciononostante esistono politici ed economisti che confidano in maniera ideologica in questa ricetta, e tra questi anche il premier britannico David Cameron. Domani, nel frattempo, è stato vietato nel corso del vertice, nel giorno del vertice europeo, il corteo anti-austerità, e 19 eurodeputati oggi sono insorti contro la decisione della polizia di Bruxelles. Sono 19 membri del centro-sinistra provenienti da Danimarca, Cipro, Grecia, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia. Il governo tedesco intanto dice no, non parleremo di Italia, la formazione del governo italiano è un tema che riguarda solo l'Italia. Domani ricordo che parteciperà per l'Italia Mario Monti come Presidente del Consiglio facente funzioni. Nel frattempo la produzione industriale europea segna a gennaio ancora una flessione, rispetto all'anno prima siamo a un meno 1,3%. E adesso veniamo all'Italia, perché oggi Morgan Stanley ha tagliato le stime di crescita nel nostro paese assieme a quelle di Francia e altri paesi. Morgan Stanley dice che quest'anno faremo non un meno 1, non un meno 1,2, ma bensì un meno 1,7%, insomma, si avvicina al 2%. L'instabilità politica, lo scrive l'economista Daniele Antonucci, probabilmente rimarrà anche se la formazione di un governo dovesse avere successo. Questo potrebbe complicare la richiesta di un'assistenza finanziaria attraverso il fondo di salvataggio OMT. E questo lo scrive oggi Morgan Stanley nel giorno, l'abbiamo già annunciata, insomma, tra ieri e oggi importantissime aste di BOT e BTP. Il Tesoro ha venduto quasi tutti i titoli di Stato collocati, ma come dicevo i rendimenti ieri e oggi soprattutto sono in netto rialzo. Eh sì, perché ieri ricorderete l'asta di botto ha fatto il pieno, ha fatto il botto, il bottuto, bottissimo. Ha fatto 7 miliardi e 750 milioni di euro collocati, però il tasso è salito, dall'1% all'1,2%. Domanda comunque buona, ieri pari una volta e mezzo l'offerta, è anche più forte rispetto alla stessa asta di febbraio. Il bot a un anno quindi ha toccato ieri il tasso più alto dal 12 dicembre. Oggi è andata secondo me un po' peggio, nel senso che il Tesoro aveva una forchetta, era pronto a collocare fino a 5 miliardi e mezzo, invece ne ha collocati solo 5 miliardi e 3, ma soprattutto ha dovuto offrire rendimenti più alti, il 4,8% di febbraio si è dovuti salire al 4,9%, quindi vicini alla soglia del 5%. E il BTP con scadenza a 2015, è salito al 2,48% contro il 2,3% di febbraio. Ed è la prima volta che rispetto all'obiettivo, cioè il Tesoro dice io posso collocare da A, e il massimo era 3 miliardi e mezzo. Dicevo, la prima volta che non si riescono a trovare tutti i compratori per l'obiettivo massimo del Tesoro, la prima volta in un mese. E vorrei capire come mai, anche perché la domanda era buona, 4 miliardi e 3 la domanda, e lo chiedo a Angelo Drusiani che è responsabile di gestioni per Banca Bertini. Sitz, buonasera. Buonasera a voi. Come mai, se la domanda era di 4 miliardi e 8, 4 miliardi e 3, mi scusi, per i nostri BTP a 3 anni, oggi il Tesoro ha preferito collocarne solo 3,3 di miliardi? Perché la parte residuale della domanda, cioè la parte finale, era a livelli di rendimenti che il Tesoro ha deciso di non accettare. Avrebbe potuto accettare anche quella domanda, però il costo della raccolta a parere del Tesoro sarebbe stato troppo alto, quindi ha rifiutato quei 170 milioni di euro che potevano completare l'offerta. Quindi, per tradurre tutti, il Tesoro avrebbe avuto i compratori, ma volevano avere un rendimento più alto di quello che era accettabile per il Tesoro? Esattamente, sì, perché quando si decidono le aste si fissano anche dei limiti minimi e massimi di rendimento. In questo caso i limiti massimi sono stati superati, di conseguenza il Tesoro ha deciso di non accettare quelle domande. È nelle sue facoltà, in sostanza. Sì, certo. Ecco, per quello che riguarda i rendimenti, invece, siamo sulla falsariga di ieri, no? Sì, purtroppo era inevitabile che i rendimenti sarebbero saliti, anche perché la speculazione a gioco facile in una fase come questa di mettere in difficoltà le emissioni tipo queste di paesi cosiddetti periferici. Quindi dopo l'asta del bot ieri si presumeva che sarebbe stato un risultato migliore, in realtà ci si aspettava per il quindicennale. Infatti. Che poi in effetti invece è salito leggermente il rendimento. La domanda è stata buona, però già nel dopo asta la quotazione sta scendendo, quindi finalmente la situazione politica lascia troppa incertezza. E sa, anche se dovessero formare un governo, non so, di larghissime intese come vorrebbe il Presidente del Consiglio attuale, quello ancora in carica, c'è sempre la difficoltà di capire se potranno andare d'accordo o meno. È una situazione un po' strana, quindi i mercati ne approfittano. Senta, veniamo poi invece alla lettura di quest'asta, al di là della parte dei rendimenti tecnici. Questo vuol dire che cosa? Perché insomma, sulle scadenze lunghe, medio-lunghe, mi sembra che ci sia stata un po' più di difficoltà? Sì, c'è stata un po' più di difficoltà, anche se siamo in una fase... Lo dico a tutti, quando l'Italia deve chiedere soldi per il suo debito, può rifinanziarlo a un anno, con il bot a un anno, dice prestami i soldi per un anno. Oppure può chiederlo per 5 anni, per 15 anni, cioè lo Stato italiano ridarà questi soldi fra 15 anni se uno li porta a scadenza. È chiaro che nel periodo peggiore, nel novembre-ottobre 2011, addirittura quelli a 2-3 anni rendevano più di quelli a 15 anni, che è un'anomalia, perché di solito uno chiede più rendimento quando c'è più rischio, ma in quel caso l'Italia era talmente sul baratro che il mercato diceva io non so neanche quanto, dove sarai tu fra 10 anni, dammi tanto per prestati soldi anche a breve. Qui siamo in una situazione un po' più normale, nel senso che rendono di più le scadenze lunghe, cioè si danno più soldi per farsi prestare, più interessi per farsi prestare i soldi nella scadenza lunga. Però non è bello vedere che insomma i timori iniziano a collocarsi comunque sulla curva. Ovviamente è una fase che abbiamo già vissuto, abbiamo già attraversato, poi magari si tornerà a sistemare. Indubbiamente il Tesoro sta facendo veramente dei miracoli in questa fase qui nel collocare questi titoli, nel riuscire ad interessare investitori internazionali sulle proposte che il Tesoro stesso fa. Giustamente lei dice più sono lunghi i titoli, più c'è il rischio di volatilità delle quotazioni, più c'è il rischio di ipotetici default, non dico dell'Italia, ma in generale di chi emette dei titoli. E quindi si è costretti a pagare dei rendimenti superiori per far sì che i sottoscrittori internazionali, ma anche interni, comprino questa tipologia di titoli. Quindi sicuramente il suo ragionamento è più che corretto. Ecco, come vede lei il fatto invece che l'Irlanda è tornata per la prima volta a emettere titoli di Stato dopo il salvataggio del 2010, cioè non aveva più collocato debito sul mercato, e c'è stata un boom di domanda da parte degli investitori, addirittura domande per 12 miliardi di euro. Sì, l'Irlanda intanto ha avuto degli ottimi aiuti da parte dell'Unione Europea e della famosa Troica. In più ha fatto delle manovre, come si suol dire, lacrime e sangue, quindi il bilancio del futuro dell'Irlanda sta andando in maniera positiva, così come si aspettavano i mercati stessi, quindi da questo punto di vista c'è una risposta abbastanza interessante. E in più c'è la situazione a cui facevo riferimento poco fa, quando dicevo che i mercati cercano in maniera importante dei rendimenti elevati. L'Irlanda offre ancora rendimenti elevati, di conseguenza in questo senso c'è domanda di questo prodotto, come ce ne sarebbe secondo me se anche la Grecia dovesse per caso tornare sul mercato con titoli di durata medio-lunga, anche se in effetti vorrei pagare dei rendimenti molto molto alti. Ancora un'ultima domanda per lei, che riguarda invece chi sta comprando questi titoli di Stato. Glielo chiedo perché UBI Banca è tornata all'utile nel 2012, 87 milioni di utile dopo 100 milioni di perdite l'anno prima. Però se si va a vedere il bilancio si scopre che il risultato positivo dell'area finanza, quindi gli investimenti, è stato di 257 milioni, dovuto soprattutto al trading, cioè all'acquisto e alla vendita di titoli di Stato italiani. Perché? Perché nel 2012 UBI Banca ha avuto, come altre banche, ha avuto un prestito dalla Banca Centrale Europea, i famosi 100 miliardi chiesti dalle banche italiane, 200 miliardi chiesti dalle banche italiane, scusatemi. Dicevo, ha avuto un prestito di 12 miliardi con un tasso di interesse che fa invidia a qualunque imprenditore o famiglia, all'1%, con questi soldi ha comprato titoli. È chiaro che quando tu hai un rendimento al 3-4%, se tu hai i soldi all'1%, la differenza è presto fatta e ci guadagni. Tant'è che l'esposizione di UBI Banca verso BOT e BTP è passata da 7,8 miliardi a 18 miliardi, cioè portando l'attività finanziaria del gruppo a 21 miliardi, il 16% dell'attivo. Gli impieghi alla clientela sono calati, adesso questo lo dico senza polemica, però quando si dice le banche stanno prestando meno soldi perché li mettono su, preferiscono comprarsi titoli di Stato, questa è la dimostrazione provata. L'acquisto dei titoli di Stato passa da 8 miliardi a 18 miliardi in un anno, 10 miliardi in più. I prestiti alla clientela scendono del 7% a 92 miliardi di euro, quindi 5 miliardi circa in meno. Ecco, secondo lei quello di UBI Banca è solo un caso emblematico, cioè il grande acquisto di BOT, BTP lo stanno ancora facendo le banche italiane? Assolutamente sì, sia le banche italiane sia quelle estere più aggressive comprano sicuramente titoli di Stato italiani, ma titoli dei paesi periferici quando le quotazioni sono scese in maniera importante anche a metà dello scorso anno, prima della decisione della BCE di finanziare eventualmente i paesi in difficoltà. La quotazione era diminuita in maniera sensibile, ma la prospettiva di una ripresa c'era soprattutto dopo che la BCE ha deciso preso questa decisione. Quindi gli acquisti sono stati massicci, il rialzo delle quotazioni sono state elevatissime, di conseguenza i guadagni sono stati molto importanti, per quello che c'è stato un acquisto considerevole di titoli di Stato. Ma d'altra parte tenga conto che la finanza investe in questa tipologia di titoli, nei titoli in generale, nelle obbligazioni investe in maniera molto massiccia, non dimentichiamo poi cosa potrebbe succedere nel tipo 2007, però questa è l'attività che fa la parte finanziaria delle banche. Grazie Angelo Drusiani, insomma interessante anche vedere poi quando si leggono i conti che non c'è nulla di male, è tutto legale e corretto, basta poi dirlo, preferiamo comprare titoli di Stato, abbiamo più difficoltà a prestare i soldi a imprese e famiglie. Basta è assolutamente non... vero. No, basta non dire che sono le imprese e le famiglie che non li chiedono. No, ecco, no, tutto qua. Assolutamente no. Giusto per capirsi. Grazie Drusiani, grazie. Buonasera. Tutti che chiedete, molti che chiedono al 349-238-6666 e su Facebook, che ne pensa dell'intervista di Grillo? Intanto diamo la notizia. Oggi Beppe Grillo ha rilasciato un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt, quindi rilascia interviste ai giornalisti ma stranieri, dicendo l'Italia, Handelsblatt è il Sole 24 Ore tedesco, è il quotidiano economico finanziario tedesco, dicendo che l'Italia è di fatto già fuori dall'euro. e che i paesi del nord Europa stanno mantenendo l'Italia nell'euro e la manterranno finché non riavranno gli investimenti effettuati dalle loro banche sui titoli di Stato italiani. Dopo ci lasceranno cadere come una patata bollente. Quindi porteranno a scadenza i prestiti che ci hanno concesso comprando BOT e BTP e poi ci faranno uscire. Continua Grillo, l'Europa non deve avere paura, serve un'inversione forte e più democratica, e ha proposto non un'uscita dell'Italia dall'euro, ma un referendum online sulla moneta unica, come si sarebbe dovuto votare sul Trattato di Lisbona. Tutti i temi su cui è stata ignorata la nostra Costituzione. Poi ha continuato Grillo sul suo movimento: noi siamo la rivoluzione francese senza ghigliottina, non sono anti-europeista, ho solo detto che volevo un piano B per l'Europa. Dobbiamo chiederci cosa è successo in Europa, perché non c'è una politica di informazione comune, una politica fiscale comune, una politica di immigrazione comune, e perché solo la Germania si è arricchita. Cosa volete che ne pensi? Sulla prima parte sono supposizioni, come tali le prendiamo, che i paesi del nord ci vogliano solo per farci ripagare i crediti che ci hanno concesso. Faccio notare che se noi dovessimo uscire dall'euro, a parte che l'euro finirebbe per come lo conosciamo, ma con una moneta molto debole noi avremo grossi problemi di inflazione, di tenuta delle banche, di costo delle materie prime, però avremmo anche, diventeremo la Cina d'Europa con una lira bis, quindi non so quanto convenga, essendo un paese ad altissimo tasso di esportazione, quanto convenga agli altri paesi. Sulla seconda parte, dobbiamo chiederci cosa è successo all'Europa. Beh, io la condivido, dobbiamo chiederci che cosa è successo all'area euro in questi due anni, perché una crisi gestibilissima come quella della Grecia, gestita nel modo peggiore, ha dato l'impressione che l'euro potesse anche non tenere, ha dato l'impressione che dopo la Grecia toccasse al Portogallo e poi alla Spagna e all'Italia, perché diciamo, ci siamo infilati da soli in un cul-de-sac dando praterie agli speculatori per scommettere che l'Europa non è unita e quindi l'euro non terrà. Le responsabilità da parte mia, per quello che penso io, le conoscete, sono quasi esclusivamente tedesche, cioè bastava fare prima quello che poi è stato fatto con due anni di ritardo e grazie alla pressione di Mario Draghi, per cui su questo non ho dubbi, ed è giusto chiedersi che cosa è successo all'Europa, se l'Europa deve essere solo un ragioniere che diciamo taglia e aumenta le tasse, oppure se ha anche delle prospettive di sviluppo, se si è data anche degli obiettivi di crescita oltre che di taglio e di austerità, se è solo una zia severa o anche una mamma che incoraggia, mettiamola così. ...17:37 di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. C'è chi dice che l'unica zia severa sono io, e vabbè, e invece ha ragione un ascoltatore che dice: attenzione, in realtà se l'Italia dovesse uscire dall'euro, ipotesi che si riallaccia a quello che dicevamo su Grillo, sull'intervista di Grillo oggi alla Handelsblatt, il prezzo delle materie prime, in realtà 70% sono tasse, è vero che si pagherebbero di più, però lo Stato potrebbe intervenire in quel senso e quindi riequilibrare. Vabbè, è vero anche questo, però attenzione prima di ragionare dell'uscita dell'Italia dall'euro. Invece siamo in collegamento con il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Roberto, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, vedo che Grillo si fa intervistare dai giornali stranieri, ma non da quelli italiani, e vabbè, sopravviveremo. Molta discussione su questa Italia fuori dall'euro. Tu, se vuoi fare un commento su questo, più che benvenuto, visto che noi domani ci presentiamo al Consiglio europeo con un Monti dimissionario e anche indebolito dall'esito elettorale, e con un'intervista alla Handelsblatt di Grillo che dice: l'Italia di fatto è già fuori dall'euro, ci tengono solo per farci pagare i prestiti che hanno effettuato. Roberto. No, io dico semplicemente che prima o poi bisogna cominciare a occuparsi seriamente delle cose serie. Io credo che le cose serie in Italia sono il lavoro che non c'è, una economia reale che paga colpe non sue, un sistema letteralmente impazzito. Credo che in tutte le famiglie si avverte con un'escalation negli ultimi mesi veramente significativa il problema del lavoro, e quindi credo che anche sull'Europa bisogna smettere di fare demagogia. Noi abbiamo avuto un grandissimo dividendo, l'abbiamo avuto quando ci fu un governo che permise all'Italia di entrare tra i primi nell'euro. Abbiamo avuto lunghi anni, lunghissimi anni, in cui il differenziale di spread con i bond tedeschi era azzerato. Potevamo e dovevamo fare riforme più incisive che incidessero sulla spesa pubblica per abbassare stabilmente in quegli anni la pressione fiscale. Non l'abbiamo fatto e abbiamo pagato il nostro conto. Abbiamo fatto di corsa con il governo Monti una riforma previdenziale importante con un grave errore sugli esodati. Gli italiani sono stati appesantiti e continuano ad essere appesantiti con una vera e propria patrimoniale come l'IMU, quindi credo che adesso, però, avendo fatto quello che abbiamo fatto, abbiamo sempre più la forza, siamo sempre più legittimati, e lo eravamo già prima, e questa è una grave responsabilità del governo Monti, a battere i pugni in Europa, perché l'Europa mette al centro la politica economica e lo sviluppo. Quindi noi, il governo italiano, deve trovare il sistema perché onori i suoi debiti. Non è possibile che si alzi la pressione fiscale ai livelli in cui l'abbiamo alzato in Italia, facendo quello che ci è stato chiesto e anche qualcosa di più, perché abbiamo fatto anche qualcosa di più che non ci era stato chiesto, e lo Stato italiano e chi lo rappresenta, chi governa questo paese, continui a girarsi dall'altra parte. No, lo Stato paghi i suoi debiti, li paghi alle imprese, fa anche il suo interesse, perché se rimette liquidità in circolazione, quella politica necessaria da preservare di disciplina fiscale in nome dell'Europa produrrà davvero i suoi effetti. Se invece si aggiungerà crisi a crisi, credit crunch a crisi di liquidità, e se si continuerà a far finta, diciamo, a non onorare i propri impegni, vorrà dire che anche il rapporto tra debito e PIL crescerà, perché sarà il PIL a risentirne e quindi il circolo vizioso sarà completo. Per cui io voglio dire che sulla demagogia da grillo sull'euro non deve incantare nessuno, me lo auguro. Viceversa, l'Italia, che è tra i paesi fondatori, insieme agli uomini più avvertiti, che sono tra i fondatori, e alle economie più avvertite, deve avere la credibilità e il peso politico per chiedere che l'Europa completi il suo disegno politico, si doti di strumenti adeguati alla sfida e si ponga al centro, per l'Europa stesso, il suo grande problema di oggi, che è il problema dell'economia reale, della manifattura. In un certo senso questo ci viene anche come lezione dagli americani, ma credo che questo è una lezione che ci viene dai fatti, sulla quale ci misuriamo ogni giorno. Ecco, Roberto, che comunque, al di là delle opinioni di Grillo, ognuno può avere le opinioni che vuole, e lui ha avuto un chiaro successo elettorale, però che il futuro economico e quindi anche finanziario dell'Italia e dell'Europa sia al centro di interessi, noi lo vediamo dal flusso di mail, sms e anche visitatori sul sito e su Facebook, e voi l'avete visto come Sole 24 Ore, da un dato che obiettivamente nessuno poteva immaginarsi, cioè a gennaio il Sole 24 Ore è stato il primo quotidiano letto a livello digitale, quindi sui cellulari, sui personal computer, sui tablet. No, credo che questo sia un dato per noi è molto importante, credo che risenta sicuramente degli avvenimenti, ma risenta soprattutto di uno sforzo che noi abbiamo attuato da mesi, perché il risultato di gennaio è il primo risultato noto, perché per la prima volta in Italia si certificano anche le copie digitali, ma è evidentemente il prodotto del lavoro fatto prima, sì, ma non di ieri, dell'altro, no, ieri, certo. Cioè, di un anno almeno in cui di più che si è fatto, e diciamo il senso dell'impegno che abbiamo fatto, che è un impegno costruito su quello che io credo sia il valore autentico dell'informazione sulle 24 ore, cioè un'informazione legata ai fatti, legata al criterio comparativo competitivo, che ha aggiunto a questa storia di rigore e di tradizione, cioè di racconto veritiero del paese, quella che io chiamo la filiera della divulgazione, dalla parola chiave al dizionario, e i due nuovi prodotti digitali che sono documenti e strumenti di lavoro. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il Sole 24 Ore non si presenta più con un solo prodotto cartaceo, che resta l'anima e la bandiera del nostro modo, certo, di fare informazione. Se non avessimo avuto i risultati che abbiamo avuto l'anno scorso, netta controtendenza su prodotto cartaceo, probabilmente non avremmo potuto costruire questo risultato che per un giornale come Sole 24 Ore è effettivamente rilevante. Cioè è la forza, è, diciamo così, è la, è vale per, cioè, è la forza della qualità del prodotto cartaceo che poi permette il dato. Tra l'altro io sono rimasto impressionato, come dicevo, dai numeri, perché è la prima volta che ci sono i numeri. Insomma, 46.190 copie digitali lette ogni giorno, cioè sono tantissime. No, io vorrei solo sottolineare una cosa, che Sole 24 Ore, come tutti sanno, appartiene alle spalle una storia di successo, quindi negli anni 80 un giornale economico importante è diventato il primo quotidiano economico d'Europa. Però, per amore della verità, anche in quella grandissima stagione di successo, mai in Italia il quotidiano economico era diventato il primo giornale italiano, cioè nella storia il Corriere della Sera e poi successivamente Repubblica avevano sempre venduto di più, quindi da questo punto di vista per noi è un impegno importante, certo, dire questo risultato, no, investire su questo risultato, e lo facciamo facendo 6 prodotti al giorno, perché noi a fine mese intensifichiamo l'offerta, per cui partiamo da Buongiorno al tuo amico Sole, per cui chi si sveglia la mattina alle 6 sul tablet sa come è chiuso New York, ha un insider sulla borsa di New York, documenti, quindi un rapporto esclusivo sull'andamento del mercato americano, ha l'apertura dell'Asia, ha l'insider sull'Asia, ha il documento sull'Asia, ha come il mondo racconta il mondo visto dai giornali internazionali, ha come il mondo racconta l'Italia visto dai giornali internazionali. Quindi credo che ci sia un sito free e un sito a pagamento con tutte le sezioni del quotidiano, ma con gli nostri approfondimenti specifici, una copia, una replica digitale, arricchita che arriva fino alla banca dati e fino al giornale di domani che alle 20 ti arriva. Questo semplicemente per dire che il prodotto Sole digitale che offriamo sul mercato è un tutt'uno con la storia del Sole, è, cioè io dico sempre che è sempre la stessa qualità. No, ma certo, è la piattaforma, è solo la piattaforma che cambia. Devo dire, non lo facciamo mai, ma con un po' di orgoglio di gruppo, fa piacere vedere che avete superato appunto quotidiani generalisti che appunto fanno quelli sì concorrenza, come Repubblica che si colloca dietro con 45.900 copie e Corriere della Sera con 45.600. Bravi, perché è lo stesso quotidiano, come dicevi tu direttore, semplicemente con un altro, con un'altra piattaforma per la fruizione. Bravi, e grazie al direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano. Grazie a voi. Mamma mia, Carpenter per i mercati mi avete messo. Fuga da New York, no, qua è fuga da Milano più che fuga da New York oggi, ma neanche tanto. Comunque la borsa, non riesco più a controllare nemmeno i tecnici di regia. Allora, l'automatica più 2,70%, Saipem più 2,60%, Luxottica più 1,40%, Diasorin più 0,60%, Mediobanca mezzo punto percentuale di rialzo come Todd ed Exor, e Steam Microelectronics che guadagna lo 0,40%. Questo è tutto per quello che riguarda chi oggi è andato bene, perché invece lo spread in aumento oggi dopo l'asta sui titoli di Stato 320 punti, non è uno spread allarmante, però insomma l'asta l'abbiamo raccontata, tutti in rialzo i rendimenti, il Tesoro che preferisce non collocare tutto il debito perché avrebbe dovuto offrire troppo sui 3 anni, insomma qualche piccola tensione. Fatto sta che UbiBanca, complice anche però i dati che ricordavamo, perde il 6,40%, il Banco Popolare perde il 5,40%, la Popolare di Milano il 4,20%, l'Emilia Romagna il 4%, poi Intesa San Paolo perde il 2,30%, Generali perde il 2%, Unicredito il 2%, e poi invece Enel perde il 6%, Media il 4,22% per i non bancari, Telecom il 3,20%, Buzzi Unice meno 2,50%. Allora, e poi anche Fiat Industrial lo 0,80%, Eni cede l'1,40%. Chiara Di Cristoforo, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano, agli ascoltatori, buonasera. Le banche abbiamo detto, però UBI e il Banco Popolare hanno fatto anche peggio della media. Sì, sono state quelle più penalizzate in un contesto di fuga, come hai detto tu, soprattutto dai bancari oggi, come sta succedendo da lunedì sostanzialmente, quando i rischi politici, il rischio paese sono tornati a fare da padroni sul mercato. Per quanto riguarda UBI e Banco Popolare ci sono altri elementi. UBI è andata anche in asta di volatilità nel corso della seduta, ci sono stati i conti e gli analisti si sono concentrati su un dato che è il margine di interesse, che è risultato inferiore alle attese. Il bilancio c'ha anche dei lati positivi, però in questo momento diciamo che qualsiasi elemento di incertezza fa scattare le vendite, e elementi di incertezza si vedono anche sul Banco Popolare, che invece presenterà i conti venerdì. In questo caso si vende sulla paura di ciò che può succedere, cioè che ci possano essere in bilancio delle rettifiche, come ci sono state sui conti di altre banche nei giorni scorsi, UBI inclusa, e questo, come dire, fa prendere posizione, fa togliere posizioni dal titolo in vista di questi dati in arrivo venerdì. Ancora, per quello che riguarda invece altri titoli, beh, citiamo qualcosa anche di positivo oggi sul mercato, perché per esempio Saipem più 2,60 si muove su notizie. Sì, Saipem continua a salire, gli unici spunti positivi sono quelli appunto legati a storie societarie. Saipem continua a muoversi in positivo grazie ai contratti che sono stati firmati nei giorni scorsi in Africa, contratti da 1,1 miliardi di euro, e il titolo continua la sua serie positiva ignorando l'ondata di vendite che ha colpito oggi il mercato. L'automatica anche, concentriamoci, il miglior titolo, più 2,70%. Anche qui ci sono i conti sostanzialmente in linea con le attese, e che vengono quindi premiati. Sono piaciute soprattutto le previsioni, che sono anche queste, rispettano le aspettative sia del mercato che della società. Nel 2012 l'utile è stato di 233 milioni, con un aumento di quasi il 35%, quindi sostanziale, e anche i margini hanno registrato una buona crescita, insomma fa ben sperare per il futuro. Vorrei chiudere con Banca Intermobiliare, che è il miglior titolo oggi sul mercato, più 20,25%, perché il Sole 24 Ore proprio ieri citava, ipotizzava una vendita a UBS. Esatto, questo è quello che ha mosso il titolo. Nel pomeriggio di ieri è arrivato anche il comunicato stampa che di fatto ha confermato che c'è un processo di valorizzazione, come si dice in questi casi, delle attività di private banking di Banca Intermobiliare. Non ha citato direttamente UBS, ma ha detto che ci sono diverse ipotesi sul tavolo e possibili partner esterni. Oggi il titolo è stato sospeso per praticamente buona parte della giornata con questo più 20 che segnava. Ultimo titolo in realtà è Enel. Allora, Enel è il peggior titolo dopo UbiBanca, meno 5,98% nel giorno in cui ha diffuso i conti. Utile netto in calo dell'80%, cioè dai 4 miliardi del 2011 si scende a 865 milioni. In realtà qui c'è la svalutazione dell'attività di Endesa Iberia, ossia è stata svalutata quella partecipazione per 2 miliardi e mezzo. Al netto però di questa cosa straordinaria, l'utile comunque è in calo del 15%, e tra l'altro il dividendo scenderà a 15 centesimi di euro contro i 26 dell'anno scorso. L'indebitamento finanziario netto dovrebbe progressivamente scendere a 42 miliardi, dai 42 miliardi del 2013 a 37 nel 2014 e 37 nel 2017. Cos'è che non è piaciuto, soprattutto questo calo dell'utile, al di là della voce straordinaria di Endesa? Ma guarda, è un po' un complesso di fattori, sicuramente il calo dell'utile che c'è, come hai detto tu, al netto della svalutazione, ma proprio la svalutazione stessa. Ricordiamo che Enel è particolarmente attiva in Italia e Spagna, sono i due mercati più in crisi in questo momento, quindi in generale, leggendo il comunicato e ascoltando poi le dichiarazioni, quello che emerge è un quadro di cautela. Una politica di investimenti più oculata, questa svalutazione pesante da 2 miliardi e mezzo di Intesa, un programma di dismissioni, bond, quindi nel complesso, come dire, Enel ha un po' rivisto al ribasso i target di crescita che aveva, proprio alla luce di quello che sta succedendo dal punto di vista macroeconomico in Italia e soprattutto in Spagna, quindi gli investitori hanno deciso di togliere posizioni proprio per questo motivo. È un quadro proprio generale, più che il singolo dato ad essere importante. C'è da dire poi che il quarto trimestre è stato particolarmente pesante, e questa riduzione dei target del piano triennale non sono decisamente piaciuti. 18:08 riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, abbiamo raccontato l'andamento di Enel in borsa, secondo peggior titolo, per i motivi che spiegavamo. Sulla fumata nera, così l'ha definita, dei mercati, visto il periodo, il tema viene utilizzato, è intervenuto l'amministratore delegato dell'Enel, Fulvio Conti, al microfono del nostro Jacopo Matano, e Conti però ha anche precisato, oltre che a livello operativo abbiamo mantenuto quanto promesso ai mercati, i mercati però hanno bastonato il titolo, ha precisato che le dismissioni, cioè le cessioni, aumenteranno verranno accelerate nel 2014 per accelerare il calo del debito, e poi ha detto non ricorreremo a nessun ammortizzatore sociale per i dipendenti, lavoreremo solo con accordi sindacali, e ha annunciato anche che rinuncerà a tutta la componente variabile del suo stipendio, al 30% dello stipendio come direttore generale. Sentiamo. Stamattina è uscito del fumo nero dai mercati, credo che sia una reazione a dei numeri che non sono stati ancora ben analizzati, ad un piano che deve essere in qualche modo compreso, per cui sono sperabilmente convinto che rileggendo il nostro piano e vedendo la serietà con cui noi affrontiamo, tramite riduzioni di costi, diversificazioni geografiche e allocazioni di capex nella giusta direzione, che i mercati possano apprezzare il nostro piano e far tornare il fumo bianco. Vi sarà reso noto il fatto che io ad esempio rinuncio a tutta la componente variabile come amministratore delegato e al 30% della componente variabile come direttore generale, che i miei colleghi rinunciano al 30% della loro remunerazione variabile, come un gesto di partecipazione e di attenzione al fatto che viviamo in epoca difficile, per cui ci sembra doveroso che mentre continuiamo la nostra politica di attenzione e riduzione dei costi in maniera armonica e trasparente, ci si offra anche noi come responsabili e top management una parte di questo sacrificio. Così appunto Fulvio Conti, per carità apprezziamo il segnale, però adesso noi parliamo di consumi, consumi non elettrici, anche quelli in calo, ma parliamo di come sono cambiati i consumi, da come si possa capire molto di più del semplice dato da questo. Oggi, come anticipavo in apertura, la lente e il focus, diciamo, va sui consumi alimentari. Eh sì, perché ci sono tanti modi per raccontare una crisi, un cambio, una difficoltà dei consumi. Noi lo facciamo spesso con i dati cosiddetti aggregati, macroeconomici, statistici. Poi però ci piace, lo sapete, anche raccontarlo con fenomeni che non sono di costume, meglio, sono di costume, ma di un costume di un italiano e di un'italiana sempre più in difficoltà economiche sui consumi. Due notizie oggi che ci hanno impressionato. La prima riguarda il mondo dell'industria alimentare. Oggi Federalimentare ha reso noto che nonostante un fatturato in aumento a 130 miliardi, però 2% in più dovuto solo all'effetto prezzi, in realtà va bene l'export, 25 miliardi di euro più 8% sul 2011, e complimenti, però parla Federalimentare di un frigorifero degli italiani che si svuota e continua a svuotarsi, meno 20 miliardi in 5 anni, e questa notizia fa il paio con un'altra notizia che riguarda il fatto che per la prima volta in 10 anni siano diminuite nel 2012 le vendite di vino nei supermercati, dove obiettivamente, per carità, si trova anche vino di fascia alta, ma tendenzialmente uno va a comprare un vino di prezzo abbastanza abbordabile. Allora ne parliamo con il presidente di Federalimentare, Filippo Ferrua. Buonasera. Buonasera. E con il direttore generale del gruppo italiano Vini, Davide Mascalzoni. Buonasera anche a lei. Buonasera. E voi siete il primo produttore in Italia come fatturato, come milioni di bottiglie, 105 milioni di bottiglie. Allora, Ferrua, iniziamo dal dato complessivo. Mi sembra di vedere che la notizia vada letta in chiaroscuro. La parte chiara, cioè quella buona, sono i dati che ricordavo velocemente sul fatturato e sull'export, no? Esatto, il fatturato per fortuna lì abbiamo registrato una crescita quasi pari a quella dell'anno scorso, siamo sull'8% di crescita, l'anno scorso eravamo sul 10%. Invece il dato negativo è certamente quello dei consumi, lei ha detto prima e ricordato, in 5 anni noi abbiamo perso 10 punti e quindi circa 20 miliardi di euro. E questo dato sul crollo dei consumi è quello che ci preoccupa di più, perché non vediamo assolutamente elementi che ci facciano sperare in una ripresa. Anzi, siamo molto preoccupati del prossimo aumento di IVA di un punto che è già programmato per il mese di luglio e che darà un'ulteriore mazzata su questi consumi, perché continueranno a incidere sulle tasche dei nostri consumatori. Ecco, tra l'altro nel quanto a export, bene l'area euro con punte del 6% in più di esportazione dei generi alimentari in Francia, Gran Bretagna e Germania, bene l'America più 10%, gli Emirati Arabi più 41%, Arabia Saudita più 30%, Turchia più 40%, Cina più 20%, Giappone più 21%, Thailandia più 40%, le cito tutti, Corea del Sud più 26%, Hong Kong più 20%. L'export della nostra industria alimentare in Messico ha fatto più 35%, in Russia più 19%. Tutti dati molto positivi. Peccato che sul fatturato totale vostro, cioè 130 miliardi, l'export pesi solo per il 20%. Vabbè. Bene, questo è un dato negativo. Nel positivo è un dato negativo, perché è poco. Noi dobbiamo crescere su questa spinta all'esportazione. In Germania, dove non c'è tradizione alimentare, esportano il 29% del loro fatturato, i 10 punti in più. Cioè l'export alimentare tedesco è del 29%, cioè 10 punti in più rispetto al nostro. Esattamente. E quindi bisogna fare uno sforzo, perché bisogna superare certi elementi che al momento sono una barriera, e mi riferisco alle dimensioni aziendali. Noi siamo fatti di piccole e piccolissime aziende che ovviamente hanno molte difficoltà ad arrivare sui mercati più lontani, quelli appunto emergenti, quelli dove c'è la crescita maggiore. Noi non abbiamo una catena distributiva italiana presente all'estero, a differenza dei francesi, dei tedeschi, che hanno queste grandi catene. E dobbiamo quindi, è l'unico punto su cui chiediamo anche al governo, chiederemo quando ne avremo uno, un aiuto, un sostegno su questa attività di esportazione. Chiederemo di poter avere delle agevolazioni fiscali sugli investimenti promo pubblicitari, e chiederemo soprattutto che ci sia un serio rifinanziamento dell'ICE possa destinare una quota importante di risorse al nostro settore. Sì, perché poi le promozioni vanno fatte in maniera congiunta e non individuale. Però, per quanto ancora ci sia da crescere sull'export, i dati che ricordavo sono più che positivi. Invece, qui vediamo la nota dolente, la spesa alimentare degli italiani, voi avete fatto il calcolo oggi, dal 2007 al 2012 è calata del 10%, che vuol dire 20 miliardi di euro in meno, cioè una manovra finanziaria in meno di spesa per il frigorifero. Ecco, tutto cala in maniera omogenea, oppure voi notate in realtà poi all'interno di questo dato alcune forti differenze? Ma guardi, cala in questo senso. Innanzitutto i consumatori hanno fatto un'azione, diciamo, di riduzione al massimo degli sprechi, e questo è l'unico forse effetto positivo di questa crisi. Quindi si acquista di meno, e poi si acquista prodotti che costano di meno, perché questo è il risultato della situazione economica delle nostre famiglie. Quindi è calato molto anche il valore dell'alimentare. Abbiamo stimato 4 punti in meno di valore aggiunto dall'inizio della crisi. Ecco, su questo voi avete notato un decremento, quindi un calo più forte l'anno scorso, perché noi vediamo che l'anno scorso sul fronte degli ordinativi, fatturato, disoccupazione e quant'altro, è stato un anno veramente veramente difficile. Però volevo capire se questo si fosse trasferito anche nei consumi alimentari. Ma noi credevamo che l'anno scorso fosse l'anno peggiore, diciamo, ecco, della crisi. Ma le prospettive del 2013 non ci danno indicazioni per pensare ad un ribaltamento, quindi temiamo che la situazione si ripresenti in modo tale quale. Di nuovo in diretta allora con il presidente federale alimentare Filippo Ferrua, visto appunto che siete il secondo settore dopo la meccanica, 130 miliardi di euro di fatturato, quanto può continuare questo cercare di riequilibrare il calo dei consumi interni, 10 miliardi in meno nel frigorifero degli italiani di alimentari come valore negli ultimi 5 anni, di cui un 3%, 3,2% solo l'anno scorso, dicevo, con le esportazioni? Io mi auguro di aumentare ancora di più la quota dell'export e poi francamente un atto di fiducia anche sulla sistemazione del mercato interno la devo avere e quindi francamente io spero che al termine di questo anno che stiamo attraversando così difficile poi si possa parlare di effettiva ripresa e quindi non dover più avere questo incubo dell'export che ci salva dal crollo interno. Però lei mi conferma, per concludere, che il calo è stato generalizzato a tutti i generi, voglio dire, sia in volume ma anche e soprattutto in valore? Sì. Parlo in Italia, sì. Quindi non c'è nessuno che è riuscito a salvarsi. Ma direi mediamente è omogeneo, sì. Ecco, nel ringraziare il presidente di Federalimentare Filippo Ferrua, devo dire che è impressionante vedere come se poi si prende un settore, diciamo, affine, come è il settore vitivinicolo, al mondo alimentare, beh, si nota un andamento analogo, ormai la dinamica è talmente netta, e mi faccio capire. L'anno scorso le nostre esportazioni di vino, visto che tra 3 settimane si apre il Vinitaly, hanno fatto segnare un record storico di 4 miliardi e 700 milioni, un più 6%, mai così alto il valore del nostro export di vino, quasi 5 miliardi, ed è il prodotto agroalimentare italiano più esportato in assoluto nel 2012. Pensate che negli Stati Uniti ha superato un valore storico, mentre un incremento a due cifre anche in Cina, più 17%, più 20% in tutta l'Asia. Tra l'altro ci sono cambiamenti anche in corso, calano i consumatori storici, quelli europei, aumentano appunto Russia, Cina come consumo. Però poi se si va a vedere il dato sul mercato interno scopriamo appunto che è una ricerca, lo scopre, che verrà presentata al Vinitaly, che per la prima volta in 10 anni diminuiscono e non di poco le vendite di vino nei supermercati. Meno 3,6%, però con delle differenze all'interno, perché salgono gli acquisti di vino di fascia superiore ai 6 euro, cala anche il brick, quindi il vino, diciamo, più economico che ci sia, meno 1,7%, calano leggermente le bollicine e crescono le vendite del vino a marca commerciale prodotto dalla grande distribuzione, quello con la marca, diciamo, della grande distribuzione. Allora, Mascalzoni, su questo mi sembra di poter dire che siete assolutamente in linea con quello che sta succedendo al settore alimentare. Sì, assolutamente sì. Quello che è avvenuto era nel passato che nel canale tradizionale, ristorazione eccetera, dei cali di consumi ci sono stati ed erano un po' più previsti, è stato meno imprevisto, quindi siamo in linea con il resto del settore alimentare, il calo nel canale moderno, per cui l'anno terminante a dicembre appunto quel meno 3,6, se poi lo guardiamo a fine gennaio, sono dati freschissimi ma disponibili, siamo a meno 4, quindi nei consumi interni gennaio, no, sì. Quindi è peggiorato rispetto anche alla media del 2012, bene? Esatto, quindi vuol dire che gennaio non è partito molto meglio di quello che è stato il 2012. E poi l'altro fattore è che questo è proprio trasversale a tutte le tipologie di vino, dal punto di vista di colore oppure fermo, frizzante, cioè è la prima volta che sia a fine dicembre ma anche a fine gennaio, diciamo, in tutte le varie tipologie c'è il segno negativo, quantomeno a quantità, a valore un pochino meglio, però questo forse può essere un altro punto di domanda per il 2013, perché l'aumento che c'è stato nella materia prima e nei prezzi, adesso mano a mano nei prossimi mesi arriverà anche sullo scaffale, e quindi c'è da vedere anche questo che cosa, con cosa comporterà. Senta una cosa, però noi segnalavamo come il vino di fascia superiore ai 6 euro in realtà è cresciuto. Lei come se lo spiega? Allora, sì. Quindi il vino già DOC, diciamo. Diciamo che in generale il calo, almeno questa è la mia interpretazione, è che è dovuto soprattutto proprio alla difficoltà economica delle famiglie, del consumatore. Nel senso che mentre il calo di consumi che ci può essere stato a livello generale, per cui si è arrivati velocemente ai 50 litri pro capite, era più dovuto a cambiamenti culturali, diciamo, di alimentari, culturali, eccetera. L'ultimo calo che invece improvvisamente ci ha fatto svegliare, che dai 50 litri, l'anno scorso ho letto le statistiche, ma ci danno intorno ai 35 litri pro capite, deriva invece non da cambi culturali, ma da cambi di soldi in tasca. E questo è più preoccupante, e mi associo a quanto si diceva prima, sicuramente ci dà motivi di preoccupazione anche per il 2030. Ma potrebbe essere che... Vini di fascia più alta risentono meno di questo, perché comunque un consumatore che poi a casa vuole, diciamo, assaporare un vino di un certo tipo, passare una buona serata, eccetera, su quei, la fascia di vini lì, a parte... Quindi potremmo dire che si beve meno per risparmiare, ma poi quando si beve uno dice, vabbè, a questo punto compro un vino di maggiore qualità? Sì, questo può essere una spiegazione, anche se l'altro fattore invece è in controtendenza, nel senso che è in leggero aumento, sono le marche commerciali. Diciamo che le due fasce, no? Quella più alta e quella più bassa, sono quelle che forse viene schiacciata la fascia in mezzo, valori certo. Esaltanti, però risentono meno di questa situazione. Tra l'altro devo dire che, insomma, voi per esempio, poi nel caso specifico, essendo il primo gruppo per fatturato, avete circa 300, adesso, quasi 400 milioni di euro, no? Se non ricordo male. E producete 105 milioni di bottiglie. Sì. Quanta parte va all'estero? Cioè, quanto vi state spostando anche voi sull'unica parte che tira in questo momento? Sì. Allora, diciamo che in generale il vino va un pochino meglio rispetto ai numeri che ho sentito prima, sì, per il settore alimentare in generale, nel senso che più o meno è 50-50, anzi l'anno scorso citava l'estero, c'è stato il sorpasso che è stato più quello che l'Italia del vino ha portato all'estero di quello consumato internamente. Quindi diciamo ci va un po' meglio sotto questo aspetto. Come gruppo italiano vini ci va ancora un po' meglio, perché la nostra quota export è il 65%, per cui diciamo che bilanciamo un po' meglio queste difficoltà del mercato interno. È chiaro che un 35% su un fatturato importante come il nostro comunque pesa, e quindi ci dà preoccupazione anche a noi, senz'altro. Grazie sia al presidente di Federalimentare che al direttore generale del gruppo Italiano Vini. Io resto comunque sorpreso nel vedere che la Germania, che uno può immaginare che esporti di tutto tranne, lo dico con massimo rispetto, che l'alimentare, ha una quota di export alimentare più pesante della nostra. Vuol dire che di strada da fare per le imprese anche ce n'è tanta, e può essere anche una cosa positiva sapere di avere margini, perché se non c'è dubbio che a livello di immagine il Made in Italy nel cibo, mi permettono i tedeschi, ha un'immagine più forte del Made in Germany. Detto ciò, la puntata finisce qui. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, le auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.